Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Calcetto, pallacanestro, corsa, bici, beach volley, trekking. Buongiorno da Nicoletta, cari amici, le vacanze ci attendono e l'estate è la stagione ideale per praticare sport all'aria aperta. Siete d'accordo con me? I vantaggi sono tanti, ne parleremo oggi, ma bisogna fare anche un po' di attenzione. Saluto il nostro ospite, il dottor Maurizio Gevi, medico dello sport. Buongiorno, dottor Gevi. Buongiorno a lei, Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori tutti di Radio 24. Allora, dottore, lei oggi ci aiuterà ad allenarci, ancora prima, scegliere l'attività sportiva più adatta per il nostro benessere psicofisico. D'altronde, le ricerche dimostrano che per riposarsi bisogna muoversi. E gli sport all'aria aperta sono sicuramente una buona occasione per farlo, per muoversi e per rilassarsi allo stesso tempo. Dottore. Allora, sicuramente la sua premessa è assolutamente corretta. Spesso appunto si dice che, e io ripeto, che chi si ferma è perduto. Infatti diciamo che proprio la sedentarietà è sicuramente una bella anticamera per diverse patologie. Per cui muoviamoci il più possibile, dobbiamo essere tutti quanti in forma. Anche perché allenando il muscolo noi stacchiamo la spina, e poi abbiamo visto, le ricerche hanno comunque dimostrato sempre di più che l'attività fisica migliora anche, oltre che il nostro umore, proprio anche la prestanza, l'abilità del nostro cervello. Assolutamente sì, e a questo punto forse vale la pena proprio di inquadrare forse anche i soggetti che si apprestano a svolgere questa attività in questa stagione, magari soprattutto. E a questo proposito appunto io avrei così identificato alcuni esempi. Bravissimo, qualche profilo, vediamo così i nostri ascoltatori sì, possono esatto. Identificarsi e chiamarli. Mi dica, allora iniziamo da? Ma io partirei proprio dai soggetti sedentari, sì. No? Che magari hanno anche qualche grammo di troppo e che mettono a frutto la bella stagione per dire mi muovo finalmente un po' di più. E questa è la categoria più ampia con la quale ci si va a confrontare. Poi forse ci sono anche soggetti che viceversa per tutto l'anno praticano un certo tipo di attività e che magari sempre per le condizioni climatiche dicono proviamo a cambiare e diversifichiamo questa attività che io ho svolto per tutto l'anno. E allora dalle quattro mura, dalle palestre, piuttosto che dalla piscina, eccetera, vado all'aria aperta. E qui poi dopo faremo una serie di riflessioni. Poi ci sono anche i soggetti che dicono ma partiamo per le vacanze e sfruttiamo le condizioni ambientali, che un ambiente appunto differente da quello con il quale io mi confronto per tutto l'anno posso utilizzare. Certo. Per cui la montagna, il mare, sono tutte appunto delle situazioni che spingono molto a fare del movimento. E per ultimo forse quei soggetti invece che comunque praticano la loro attività per tutto l'anno anche in vacanza, e anche su questi soggetti avremo modo di fare qualche piccola riflessione. Possiamo aggiungere, dottor Gevi, anche le persone che vorrebbero fare attività fisica ma hanno subito un intervento, si sono fatti male, sentono dei dolorini, perché penso al mio amico Carmelo Lauricella che regia la parte tecnica e anche lui ha voglia di muoversi ma la spalla gli ha dato qualche problema, e quindi anche consigli per chi si sente un po' acciaccato come Carmelo per scegliere l'attività fisica, in questo senso un'attività fisica che può essere in un certo senso riabilitativa. Aggiungiamo anche questo profilo ai nostri soggetti che potremo così contattare e testare e valutare. Attenzioni, controindicazioni e raccomandazioni. Per tutti vale, per chi è appassionato, per chi deve fare sport, perché glielo consiglia il medico, perché la moglie lo vuole un pochino più magro. Non bisogna esagerare, non dobbiamo farci prendere dalla voglia di fare tutto subito e di raggiungere obiettivi di performance troppo ambiziosi, perché, cari amici, giocarsi la vacanza è un attimo, e pensate che a segnalarlo è uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha elaborato un campione di dati di ASL e ospedali italiani. Ce lo facciamo raccontare dal dottor Marco Giustini, che è epidemiologo dell'Istituto e Superiore di Sanità e curatore della ricerca. Buongiorno dottor Giustini, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dottor Giustini, sportivo avvisato, sportivo mezzo salvato, e di sportivi noi ne abbiamo tanti all'ascolto. Direi di sì, anche se l'Italia non è che sia proprio una nazione a fortissima vocazione sportiva, se escludiamo, come dire, il dio pallone, quando va bene la Formula 1 e Valentino Rossi, il resto, insomma, siamo un popolo non di grandi sportivi. Tuttavia i dati dimostrano che comunque quei 17 milioni di persone che praticano uno più sport ci sono. Va per contro segnalato che una grossa quantità, almeno il 40% della popolazione italiana, è completamente sedentaria, e questo non è un bene, perché, come ha detto il professore prima, l'attività fisica comunque mette in circolo tutta una serie di benefici. Siamo un paese che presenta un tasso di sportività e di attività fisica minore di altri paesi europei, soprattutto quelli del nord Europa, l'Inghilterra e recentemente anche la Spagna. Va però, come dire, segnalato dei piccoli miglioramenti di tipo generazionale, e la quantità di persone di una certa età che continua a fare sport è aumentata nel tempo. Siamo passati al 12-13% di sportivi tra i 55 e 60 e 59 anni a quasi il 20%, quindi adesso quasi uno su cinque di questa fascia d'età pratica uno sport, e negli ultra 75 anni la quantità di sportivi è praticamente raddoppiata in un decennio. Quindi, dottor Giustini, stiamo andando meglio? Decisamente, piano piano, come dire, si va diffondendo un cambiamento culturale che, come tutti i cambiamenti culturali, necessitano di un lasso di tempo abbastanza lungo. Però la vostra indagine dice agli sportivi: fate attenzione. Dice, fate grande attenzione, perché come tutte le attività della vita umana ci sono comunque dei rischi, che in questo caso, come lei ha ben detto in premessa, sono largamente inferiori ai benefici, ma comunque ci sono. Noi, il nostro sistema di sorveglianza dei centri di pronto soccorso, istituito con, diciamo, la legge che ha istituito il sistema di sorveglianza degli incidenti in casa e del tempo libero, quindi campionando una serie di pronto soccorso, abbiamo potuto stimare in circa 300.000 l'anno gli accessi al pronto soccorso per traumi sportivi. Adesso, tanto per dare una dimensione, quelli per traumi stradali sono circa 1.200.000, 1.300.000, quelli per traumi di incidenti in casa sono 1.700.000, per cui siamo comunque chiaramente in una quantità molto ridotta, mediamente poco gravi, comunque ci sono, e spesso, come lei abbiamo detto, si tratta di eventi che possono rovinare una vacanza. Allora, qual è lo sport, l'attività sportiva che rischia di metterci KO più di altre? Ma sicuramente l'attività, diciamo, quella più praticata e diffusa, cioè il calcio nelle sue varie declinazioni, che può essere il calcetto o, perché no, durante la stagione estiva, il beach soccer, cioè il calcio praticato sostanzialmente su spiaggia. In questo caso, insomma, siccome... dottor Giustini, la classica partita a scapoli ammogliati. Esatto, è, per carità, motivo di grande divertimento, di coesione sociale, di scherno magari tra le parti, però indubbiamente le improvvise accelerazioni e decelerazioni che comporta uno sport del genere, gli impatti, perché il calcio, non neghiamo, c'è uno sport anche di impatto fisico, provocano stiramenti, contratture, e spesso soprattutto associate anche a una mancata preparazione fisica, spesso ci si improvvisa, passiamo direttamente dalla scrivania alla spiaggia così in poche ore, e poi ne parliamo anche le conseguenze. Spesso questi incidenti sono a carico degli arti inferiori. Allora, dottor Gevi, lei come ci può aiutare? Come può aiutare gli scapoli e gli ammogliati a non infortunarsi? Ma innanzitutto io farei sempre una premessa, tenendo presente che la carta d'identità

E riscaldatevi prima, dai Paolo. Eh beh, il riscaldamento è chiaro che ci deve essere. Naturalmente io sono, te l'ho già detto anche un'altra volta, sono il meno indicato, perché io quando entro in campo vedo la palla e comincio a calciare, invece, e poi chiaramente ne subisce le conseguenze. Invece dovremmo tutti, soprattutto dopo gli anta, bisognerebbe che facessimo sempre un po' di stretching, un po' di riscaldamento, eccetera. Quindi bisogna dire non fate come Paolo Belli. Esatto, cioè voi, esatto. Vedete, voi vedete Paolo partita. Belli? Fate il contrario ed è perfetto. Ti saluto, buona estate. Dottor Giustini, dal calcetto passiamo al beach volley, che è un classico, no? Si gioca in spiaggia, si può decidere così su due piedi di fare la partitella, giocano i ragazzi, gli scapoli, i single, insomma. Esatto, sì, il beach volley, come ha detto lei, è un classico dell'estate e, essendo praticato molto come la pallavolo, il suo corrispondente, l'omologo, diciamo cittadino in qualche modo, molto anche dalle ragazze, in questo caso noi osserviamo un congruo numero di infortuni che riguardano anche le donne, ma in linea di massima possiamo dire che in questo caso gli infortuni riguardano distorsioni e fratture alla caviglia, stiramenti del polpaccio, e poi, visto il contatto con la palla, slogature o fratture del polso, della mano e delle dita in qualche modo. E come ho detto, a differenza degli altri sport in cui gli incidenti riguardano soprattutto i maschietti, in questo caso anche le femminucce sono particolarmente a rischio. E allora noi andiamo a sentire i consigli di Giulia Momoli, giocatrice di beach volley, ma giocatrice quella vera. Giulia, ciao, benvenuta. Buongiorno a tutti, ciao. Allora Giulia, pensiamo a noi, pensiamo alle donne, alle mie amiche all'ascolto, che come me si improvvisano, giocatrici di beach volley per quest'estate, che cosa raccomandi? Guarda, io consiglio innanzitutto un'ottima idratazione, che è la cosa principale per quando si gioca sotto il sole, un'idratazione con l'acqua e con i sali minerali. Poi, come consigliavano in precedenza i dottori, come per il calcio, anche nel beach volley un buon riscaldamento e lo stretching alla fine della partita. Poi, con quello andiamo tranquilli. Esatto, essendo uno sport sotto il sole, soprattutto per le donne, si raccomanda una buona protezione solare anche. Perché gli uomini li lasciamo arrostire, Giulia. No, però no, noi donne scherzando. Siamo delicate, quindi assolutamente. Tutti, e poi soprattutto evitare le ore più calde. Sono consigli di buon senso, ma poi quando siamo in vacanza, tante volte, staccando la spina, stacchiamo anche il buon senso. Giulia, grazie, buone vacanze. Niente, grazie a voi. Grazie a te. Grazie. Laura, buongiorno da Salerno. Buongiorno, salve. Senta, io volevo parlare della mia esperienza. È uno del legame che esiste tra l'alimentazione, una giusta alimentazione, e anche l'efficienza, la capacità di affrontare, diciamo, uno sforzo fisico in modo adeguato, nel miglior modo possibile. Devo dire, non sono una grande sportiva, però ho sempre fatto attività in modo abbastanza continuato, sia piscina o palestra. Ho avuto particolarmente difficoltà invece nei mesi estivi, cioè sentivo proprio la sofferenza nel mio corpo nel fare attività, fosse bicicletta o corsa o altro. Certo. Da quando invece sto applicando un regime alimentare molto equilibrato, che equilibra il contenuto di carboidrati, proteine e grassi, ed è la dieta zona italiana di Barry Sears, ho migliorato notevolmente le mie condizioni fisiche. Tenga conto che io adesso sono in gravidanza all'ottavo mese, mi muovo con grande agilità, riesco a nuotare per 50 minuti senza avere affaticamento. E secondo lei tutto deriva da questo cambiamento di stile alimentare? Assolutamente sì, addirittura sto controllando il diabete, le dico tutto. Quindi io consiglierei di fare, ma anche per il futuro, delle trasmissioni approfondite proprio su Laura, questo. Abbiamo appunto parlato di dieta zona. Io di base non consiglio mai delle diete così, non appioppo mai diete, anche perché secondo me la scelta alimentare, il dottor Gevi come medico dello sport me lo può confermare, deve essere sempre mirata e studiata dopo un'attenta analisi anche della situazione di salute generale dell'individuo, per cui io non mi sento in trasmissione di sposare una dieta piuttosto che un'altra. Possiamo parlare delle diete in generale, dello specifico, di capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza, ma dottor Gevi conferma? Non sarebbe corretto consigliare uno stile. senz'altro. La dieta mediterranea, una dieta equilibrata mediterranea, la dieta che consigliano sempre, anche su cui ci sono anche delle prove, mi sembra che sia la dieta che ci mette al riparo da tutta una serie di patologie. Dottor Regevi, in ogni modo... Volevo sentire una sua opinione. Sicuramente la dieta giusta, avere una dieta equilibrata, aiuta anche a sopportare la fatica, a rendere meglio nell'attività sportiva. Senz'altro, io lo sostengo sempre che noi siamo quello che mangiamo, per cui se noi mangiamo in maniera corretta possiamo fare in maniera corretta ogni tipo di stress e riusciamo a sopportare ogni tipo di stress. E direi che è assolutamente fondamentale un equilibrio di quanto si va a perdere. L'ascoltatrice di Salerno faceva riferimento per esempio alla pratica di attività natatoria in piscina. Ecco, e come nell'intervento di Giulia Maioli sottolineava che alcune condizioni ambientali sono assolutamente da tenere presente dove si viene a praticare lo sport, per cui al sole diventa fondamentale la reidratazione, per cui giocando a beach volley è fondamentale avere la borraccia, l'integratore a bordo campo, ma tenete presente anche dell'importanza anche della idratazione in piscina, perché non si ha la percezione di una disidratazione o di proprio sudare. Si suda anche mentre si nuota, dottor Gevi. Assolutamente sì, e pertanto è assolutamente fondamentale riuscire a reintegrare la perdita idrica e di sali minerali anche in chi pratica un'attività in acqua. Essere e benessere. Dottor Giustini, vogliamo occuparci anche delle persone che praticano la corsa o vanno in bici? Beh, assolutamente sì, anche perché sono decisamente tante. La corsa è sicuramente forse un'attività particolarmente connaturata all'essere umano, gli riesce naturale, quindi quella forse è l'attività sportiva più facilmente fruibile da tutti quanti. Ciò non di meno comunque comporta dei rischi, sia pur, ripeto, minimi, ma pur sempre un accesso sul 20 a pronto soccorso è dovuto a traumi legati alla corsa. In questo caso ovviamente i traumatismi si concentrano anche in questo caso negli arti inferiori, per quasi la metà si tratta di distorsioni alla caviglia, stiramento del polpaccio, e per un altro quinto distorsione al ginocchio, probabilmente legato anche a un appoggio spesso non felice sul terreno. Nella bicicletta invece, a parte il problema dell'incidente stradale che esula dal nostro discorso, vista la dinamica dell'incidente, i problemi più seri si hanno in genere alla frattura, all'ussazione della scapola, trauma cranico, tant'è vero che sarebbe bene comunque indossare il caschetto di protezione, e poi fratture al polso. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado gonfio e vele. E in linea ho il mio runner preferito che mi dà grandi soddisfazioni, Giuseppe Cruciani. Ciao Giuseppe. Ciao, permettimi di dire una cosa, Nicoletta, mentre il dottore prima elencava ho un po' toccato ferro dappertutto. Sì, però noi sappiamo che tu ti prepari, perché la nostra è, attenzione, preparatevi, l'attività fisica dà moltissimi benefici, però ci sono anche dei dati che dicono che, insomma, chi non si prepara adeguatamente, chi vuole fare il fenomeno, sai, ci vuole anche un po' di buon senso, tu ce l'hai e io vorrei cerco che tu... Cerco di averlo. Ecco, cerchi, poi però ce la fai. E al runner vacanziero vuoi far sapere che... Voglio far sapere che è meglio correre, ma questo è scontato, la mattina presto o la sera tardi. Senti, questa è la prima cosa. E per andare bene, forte e sano, e vincere, come fai tu? No, io non vinco, sano sì, forte così. Ma non bisogna nemmeno troppo insistere su questa cosa di vincere, correre forte, eccetera, perché poi ti prende l'agonismo e poi la competizione, ti porta appunto a magari a esasperare, no? A forzare delle cose che non dovresti forzare. L'estate è un periodo pessimo per correre. Senti, tu quando corri? Corri al mattino presto, tutti i giorni? Oggi ho appena finito di correre perché oggi a Milano è una giornata un po' più fresca e dunque si poteva anche correre, ma non è indicato questo orario. Io corro alle 8 e oppure corro alle... No, alle 8 perché poi... Poi hai la zanzara e come si fa? No, qualche anno fa riuscivo a correre anche quando dovevo preparare qualche gara magari a settembre, allora ero costretto a allenarmi anche a luglio, correvo alle 9:30 di sera, pieno di zanzare dappertutto. Pieno di zanzare. Senti, Giuseppe, chi corre dice che correndo proprio gli si schiariscono le idee, correndo riesce a pensare e a risolvere anche dei problemi, a delle idee, delle illuminazioni. Funziona anche a te o solo ad alcuni, secondo te? Assolutamente sì, anzi ti dico che è uno dei motivi principali per cui corro. La corsa di questa mattina, 12 km, mi ha permesso di risolvere un sacco di problemi. Però avrei pensato, adesso c'ho quella tegola, mi chiama Nicoletta perché vuole sapere i consigli, per cui va bene, comunque, quindi no, sono stata io una zanzara. Devo confessarti che mi ero segnato, ma nei momenti in cui mi hai chiamato mi ero totalmente scordato. Bravo, ecco, tanto per confermare. Senti Giuseppe, ti abbraccio e tanto ti vedo. Grazie Giuseppe Cruciani, ciao. Però se, dottor Giustini, vogliamo fare un'ultima raccomandazione, sembra quasi una raccomandazione banale ma vogliamo farla, per chi nuota, attenzione ad andare in piscina, ad andare al mare, godetevi il mare ma con tutte le dovute attenzioni. Perché, dottore? Perché forse per l'opposto motivo, no? Quando si parlava della corsa come un'attività fisica assolutamente connaturata alla natura umana, il nuoto si svolge in acqua, che è un ambiente, non è l'ambiente consono proprio dell'uomo, per cui se succede qualcosa spesso ha delle conseguenze gravi. Noi ricordiamo che l'annegamento, che è la conseguenza poi letale, diciamo in qualche modo collegata al nuoto, è un evento raro ma altamente letale. Noi contiamo ogni anno circa 400 morti per annegamento. Ovviamente poi non si tratta tutti di annegamenti nel mare, magari c'è la persona che cade in un fossato, eccetera, eccetera. Però è estremamente pericoloso. E nei tempi più recenti, con la grande diffusione delle piscine, in particolare le piscine private, dovute anche al gran caldo che fa spesso l'estate, questo ha ampliato, sì, da una parte la platea di fruitori dell'acqua, dall'altra però il problema legato alla sorveglianza del bambino. Molto spesso molti incidenti, a volte mortali purtroppo, comunque molto gravi, riguardano soggetti molto piccoli, e ricordiamo sempre che non è in una piscina, non servono 2 metri di acqua per annegare, per il bambino molto piccolo basta anche mezzo metro, se non è sorvegliato adeguatamente rischia. Per questo noi dell'Istituto Superiore di Sanità abbiamo realizzato un decalogo sulla sicurezza in acqua che contiene, come dire, una serie di norme di comportamento che possono essere in qualche modo utili per prevenire questo genere di incidenti e che può essere, come dire, consultabile anche sul nostro sito. Allora, noi andremo a leggere il decalogo sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Ringrazio il dottor Giustini per essere stato con noi. Grazie, grazie dottore, buone vacanze anche a lei. Marco da Fermo, ma buona giornata a lei. Senta, io ho un problemino da un po' di tempo. Sono anch'io un appassionato di running, o comunque mi alleno quasi tutti i giorni facendo i miei 7-8 chilometri. Però e, se la cava bene. Sì, diciamo che cerchiamo di mantenerci a 55 anni. Non lo dica così, Marco. No, lo dico in senso positivo, bene. Credo che... Ma qual è il problemino? Il problema è abbastanza serio, ma penso sia abbastanza semplice, nel senso che almeno il professore... Allora, io ho qualche protusione di scale in S1, L4, S1, adesso vorrei essere impreciso nel termine medico, che quando corro... non avverto, diciamo, grandi dolori, tranne un piccolo fastidio nella parte inguinale. Mentre quando cammino magari prima faccio un preriscaldamento di 5 minuti camminando velocemente, questo dolore mi parte dai glutei, sì, mi parte un dolore zitto da parte del gluteo fino a sotto la parte lombare, diciamo dietro la spalla, quasi come se mi togliesse il fiato, insomma. Mamma mia, Marco! Sì, senta, sì, per fortuna che noi abbiamo qua in linea, anzi, il dottor Antonio Turetta, medico fisiatra ed esperto di medicine non convenzionali. Dottor Turetta, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma come, ecco, certo che se uno deve fare attività fisica, poi gli vengono tutti questi dolori. Pensando all'ascoltatore che ha evidentemente una discopatia L5S1, che è la parte bassa. Mamma mia, che parolona! Cioè, cosa vuol dire? Che ha una sofferenza di quello che è il passaggio tra una vertebra, l'ultima vertebra lombare e la prima sacrale. L'ultima si chiama appunto L5, la lombare 5, e la prima sacrale. Lì c'è un disco che tantissime volte subisce un po' tutte le sollecitazioni che si hanno sia nel cammino ma soprattutto nella corsa, e sto pensando delle reattività che il signore può avere di tipo muscolare proprio durante la corsa e magari anche durante il cammino, dipende che senta, ma uno non può cambiare, fare altro? Ma secondo me se un po' di bici è appassionato di questo, come facciamo possono essere scarpe forza. ci sono degli escamotage per evitare questi dolori? Sì, beh, a parte il fatto che occorrerebbe, io dico sempre, esiste la scarpa adatta a ognuno di noi, per cui occorre sempre studiare, per questo consiglio. Prendiamo spunto dalla telefonata del nostro ascoltatore, che ringrazio per averci chiamato, per fare una riflessione a voce alta. Cioè, quando facciamo attività sportiva, i miei ospiti mi correggano, e avvertiamo dei dolori, non facciamo i martiri, non stringiamo i denti, perché no, comunque, ecco, fermiamoci, perché rispettiamoci. Il dolore è un segnale d'allarme, è un segnale che il corpo ti manda e dice fermati, riposati, e comunque cerca di scoprire cosa c'è che non va nel tuo modo di camminare, nel tuo modo posturale, che può evocare questo dolore e magari esacerbarlo. Per questo che il dolore, diciamo sempre, fermatevi, non fate gli eroi. Massimo, buongiorno da Bologna. Buongiorno a lei. Allora, niente, io ho 58 anni, no? Io sono un po' come Belli, no? Io sono un po' la palla della situazione, no? Sì. Cioè io sono un po' sovrappeso, no? E io circa un anno, cioè, noi giochiamo, abbiamo una squadra, insomma, siamo un po' così, un po' tra amici, ci divertiamo a giocare a pallavolo, no? Sì. Io circa un anno fa, giocando una partita a pallavolo, in una caduta, diciamo così, mentre facevo un tiro, mi sono sentito un dolore a un ginocchio, e da allora questo ginocchio mi ha sempre fatto male, no? E lei, e Massimo, allora, sempre con gli amici a giocarci sopra? Sempre con gli amici a giocarci sopra. In effetti adesso mi è stato diagnosticato che mi dovranno operare il menisco e la cartilagine, perché non c'è più la cartilagine. Allora io volevo chiedere al dottore, no? Siccome io sono alto, 1,80 m, per 120 kg, no? Praticamente facciamo la radice quadrata, no? Massimo, lei è troppo simpatico. Allora, lei, Massimo, che cosa vuol fare? La operano al menisco, ha caricato il ginocchio. Come possiamo aiutarla? Veniamo a trovarla in ospedale, non lo so. Massimo, se questa situazione, cioè questa situazione che mi si è creata, è dovuta a questo tipo di attività, oppure è solo una questione perché c'è un sovrappeso che comunque, diciamo, i capitelli devono portare un palazzo più pesante del... Allora, ricevuto, dottor Gevi. Ok, grazie. Grazie, Massimo. In bocca al lupo. Dottor Gevi, il sovrappeso e l'attività sportiva? È un po' l'insieme, però direi, come diceva il dottor Turetta, non bisogna trascurare quelle che sono delle situazioni strutturali nostre proprie del fisico, per cui a volte magari migliorando la nostra struttura senza arrivare all'intervento, oppure dopo effettuato l'intervento risolutivo, l'intervento chirurgico o altro, si possono mettere in atto una serie di provvedimenti, magari migliorando gli appoggi, per cui nella scelta della calzatura, personalizzando l'appoggio con delle ortesi plantari, per cui proprio con delle solette

che richiedono una grande attenzione. Quindi, professore, diamo un consiglio ai nostri ascoltatori. Ciascuno di noi prende qualche farmaco per periodi brevi o per terapie che si prolungano nel tempo. Il consiglio è sempre quello di riferire al medico curante. Il consiglio è sempre quello di riferire al medico qualsiasi cosa si prende, si assume, soprattutto se sono questi farmaci, questi prodotti acquistati nelle erboristerie, bisogna sempre dire tutto al medico e in caso di dubbio, anche per quanto riguarda i cibi, chiedere sempre consiglio al medico. Professor Garattini, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. E per oggi è tutto, cari amici, noi ci sentiamo e vi do appuntamento lunedì dopo il GR delle 11. Buon fine settimana da Nicoletta Carbone.